Il re dell'Egitto radunò truppe, numerose come l'arena che è sulla riva del mare, e navi in quantità, volendo impadronirsi con astuzia del regno di Alessandro per annetterlo al suo proprio regno. Si mosse alla volta della Siria con parole di pace, e gli abitanti delle città gli aprivano le porte e gli andavano incontro, giacché il re Alessandro, essendo suo suocero, aveva ordinato di andargli incontro. Tolomeo, però, una volta entrato nelle città, lasciava in ognuna le sue truppe per custodirle. Quando giunse ad Asdod, gli mostrarono il tempio di Dagon incendiato, Asdod stessa e i suoi sobborghi distrutti, i cadaveri abbandonati e i resti di quelli che Jonata aveva fatto bruciare in guerra. Di questi, infatti, ne avevano fatto dei mucchi lungo il suo percorso. Gli raccontarono pure quanto aveva fatto Jonata, pensando che egli lo avrebbe biasimato. Ma il re tacque. Jonata, con grande pompa, andò ad incontrare il re a Giaffa. Si salutarono l'un l'altro e passarono la notte là. Jonata poi andò con il re fino al fiume chiamato Eleutero e quindi se ne tornò a Gerusalemme. Il re Tolomeo divenne così padrone delle città del litorale fino a Seleucia Marittima, mentre meditava cattivi progetti ai danni di Alessandro. Egli poi inviò degli ambasciatori al re Demetrio e gli fece dire: «Vieni, facciamo alleanza tra noi, ti darò mia figlia che Alessandro ha in moglie e regnerai nel regno di tuo padre. Io infatti mi sono pentito di avergli dato mia figlia, poiché egli tentò di uccidermi». In realtà, egli lo biasimava perché bramava impossessarsi del suo regno. Quindi, toltagli sua figlia, la diede a Demetrio. In questo modo si separò da Alessandro e la loro inimicizia si fece manifesta. Tolomeo poi entrò in Antiochia e vi cinse il diadema dell'Asia. Pose sulla sua testa due diademi, quello dell'Egitto e quello dell'Asia. Il re Alessandro in quei giorni era in Cilicia perché gli abitanti di quelle zone gli si erano ribellati. Come Alessandro fu informato di ciò, marciò contro di lui in guerra, ma Tolomeo, uscito fuori, gli mosse contro con grande potenza e lo mise in fuga. Alessandro fuggì in Arabia per trovarvi riparo. Il re Tolomeo, invece, fu glorificato. L'arabo Zabdiel mozzò la testa di Alessandro e l'inviò a Tolomeo. Ma tre giorni dopo anche il re Tolomeo morì e i suoi uomini che erano nelle fortezze furono uccisi dagli altri che erano nelle fortezze stesse. Così Demetrio incominciò a regnare nell'anno 167. In quei giorni Jonata radunò gli uomini della Giudea per attaccare l'Acra che era in Gerusalemme e fece fare molte macchine per usarle contro di essa. Allora alcuni uomini iniqui che odiavano la propria gente andarono dal re e gli riferirono che Jonata assediava l'Acra. Udito ciò, il re si adirò e, avutane conferma, levò subito il campo e si recò a Tolemaide e scrisse a Jonata di togliere l'assedio e di andargli incontro al più presto a Tolemaide per conferire con lui. Udito ciò, Jonata comandò di continuare l'assedio. Poi, scelti alcuni anziani di Israele e sacerdoti, affrontò il pericolo. Preso argento, oro, vestiti e molti altri doni, si recò dal re a Tolemaide e trovò grazia presso di lui. Alcuni empi della sua nazione tentarono di intervenire contro di lui, ma il re lo trattò come lo avevano trattato i suoi predecessori e lo esaltò davanti a tutti i suoi amici. Gli confermò il sommo sacerdozio e tutte le altre dignità che aveva per l'innanzi e volle che fosse annoverato tra i primi amici. Jonata chiese al re di rendere la Giudea esente dalle imposte, al pari delle tre toparchie e della Samaria, promettendogli 300 talenti. Il re accondiscese e scrisse a Jonata intorno a tutte queste cose lettere così concepite: «Re Demetrio al fratello Jonata e alla nazione dei Giudei, salute. una copia della lettera che abbiamo scritta all'Astene nostro parente a vostro riguardo, la scriviamo anche per voi affinché ne prendiate conoscenza. Il re Demetrio al padre Lastene salute. Alla nazione dei Giudei, che sono nostri amici e osservano ciò che è giusto verso di noi, abbiamo giudicato opportuno far del bene in ragione dei buoni sentimenti che hanno per noi. Pertanto, confermiamo loro il possesso dei territori della Giudea e dei tre distretti di Afereima, Lidda e Ramataim. Essi, con tutte le loro dipendenze, dalla Samaria furono annessi alla Giudea, a favore di tutti quelli che offrono sacrifici in Gerusalemme, in compenso delle imposte regali che il re prendeva da essi per l'innanzi ogni anno, sui prodotti della terra e sui frutti degli alberi. Quanto agli altri diritti che abbiamo sulle decime e sui tributi che ci si devono, sulle saline e le corone che ci erano dovute, da questo momento vi rinunziamo completamente. Nessuna di queste disposizioni sarà revocata a partire da questo momento e per sempre. Abbiate dunque cura di fare una copia della presente e di consegnarla a Jonata affinché sia collocata sul Monte Santo in luogo patente. Il re Demetrio, vedendo che il paese era calmo davanti a lui e che nessuno gli si opponeva, licenziò tutte le sue truppe, ognuno al proprio paese, ad eccezione delle truppe straniere che egli aveva reclutato dalle isole delle nazioni. Allora tutte le truppe che erano state con i suoi padri incominciarono ad osteggiarlo. Trifone, che era stato per l'innanzi dalla parte di Alessandro, vedendo che tutte le truppe mormoravano contro Demetrio, si recò presso l'arabo Imalque, che allevava Antioco, il giovane figlio di Alessandro, e lo circuiva affinché glielo consegnasse per farlo regnare al posto di suo padre. Gli parlò pure delle cose che Demetrio aveva ordinato e dell'inimicizia che i suoi soldati nutrivano per lui, e rimase lì per molti giorni. Jonata mandò a chiedere al re Demetrio di rimuovere da Gerusalemme gli uomini che erano nell'Acra e gli altri che erano nelle fortezze, perché facevano guerra ad Israele. Demetrio però mandò a dire a Jonata: «Non solo questo farò per te e per la tua nazione, ma colmerò di onori te e la tua nazione appena mi si presenti la buona occasione. Ora però farai bene a inviarmi uomini che combattano con me, già che tutte le truppe mi si sono allontanate». Jonata gli inviò in Antiochia 3.000 uomini molto valorosi, e quando questi giunsero presso il re si rallegrò per il loro arrivo. Gli abitanti della città si radunarono al centro della città in numero di circa 120.000 e volevano eliminare il re. Il re però si rifugiò nel palazzo, mentre gli abitanti della città invadevano le vie della città e incominciavano a combattere. Il re allora chiamò in soccorso i giudei, e questi si radunarono presso di lui tutti insieme. Poi si dispersero per la città e ne uccisero in quel giorno circa 100.000. Diedero fuoco alla città, raccolsero molte spoglie in quel giorno e salvarono il re. Or gli abitanti della città, quando videro che i giudei si erano impadroniti della città a loro piacimento, si persero d'animo e incominciarono ad elevare suppliche al re, dicendo: «Dacci la destra e cessino i giudei di combattere contro di noi e contro la città». Deposero le armi e fecero la pace. Così i giudei si coprirono di gloria davanti al re e a tutti i cittadini del suo regno e ritornarono a Gerusalemme con molte spoglie. In questo modo il re Demetrio poté sedersi sul trono del suo regno e il paese rimase calmo davanti a lui. Egli poi però rinnegò tutto ciò che aveva promesso, si mostrò ostile a Jonata e non ricambiò i favori che questi gli aveva reso, anzi incominciò a vessarlo duramente. Dopo queste cose, Trifone ritornò con Antioco, ancora molto giovane. Incominciò a regnare e cinse il diadema. si radunarono attorno a lui tutte le truppe che Demetrio aveva congedato e combatterono contro costui, il quale fu messo in fuga e travolto, mentre Trifone catturò gli elefanti e si impadronì di Antiochia. Il giovanetto Antioco scrisse a Gionata dicendogli: «Ti confermo il sommo sacerdozio, ti pongo a capo dei 4 distretti e ti annovero tra gli amici del re». Gli inviò vasellame d'oro e un servizio da tavola. Gli diede facoltà di bere in vasi d'oro, di indossare la porpora e di portare una fibbia d'oro. Inoltre costituì suo fratello Simone stratega dalla scala di Tiro sino ai confini dell'Egitto. Gionata cominciò a percorrere la regione d'oltre il fiume e le varie città, e tutto l'esercito di Siria si unì a lui per combattere insieme. Andò ad Ascalone e gli abitanti della città lo ricevettero con onore. Di qui andò a Gaza, ma quelli di Gaza gli chiusero le porte. Allora egli l'assediò, incendiò i suoi sobborghi e li saccheggiò. Quelli di Gaza allora supplicarono Gionata ed egli diede loro la destra. Prese tuttavia come ostaggi i figli dei loro capi e li spedì a Gerusalemme. Quindi attraversò la regione fino a Damasco. Ma poi, avendo saputo che i generali di Demetrio si trovavano a Cades in Galilea con un grande esercito e che volevano fargli abbandonare l'impresa, marciò contro di loro, lasciando suo fratello Simone nella regione. Simone venne ad accamparsi sotto Bet-Zur e per molti giorni combatté contro di essa tenendola assediata. Lo supplicarono di accettare la loro destra ed egli acconsentì. Tuttavia li espulse di lì, occupò la città e vi pose una guarnigione. Gionata e il suo esercito, invece, andarono ad accamparsi presso le acque di Gennesaret e di buon mattino giunsero nella pianura di Casor. Ed ecco che l'esercito degli stranieri stava loro davanti nella pianura, mentre altri organizzavano un'imboscata contro di lui sui monti. Quelli avanzarono frontalmente, quando gli imboscati, usciti dai loro luoghi, attaccarono battaglia. Gli uomini di Gionata fuggirono, nessuno di loro rimase all'infuori di Mattatia, figlio di Assalonne, e Giuda, figlio di Calfi, capi dell'esercito. Gionata si stracciò le vesti, si cosparse il capo di polvere e pregò. Quindi si voltò contro i nemici, combattendo, li mise in rotta e fuggirono. Visto ciò, quelli che erano fuggiti tornarono da lui e con lui li inseguirono fino al loro accampamento a Cades. Quivi si accamparono. Gli stranieri caduti in quel giorno furono circa 3.000 uomini. Quindi Gionata fece ritorno a Gerusalemme.